vi rompo la minchia. Allora, buonasera a tutti. Questo è una guida al consumo critico. È un po' un'emozione tornare qui dopo 10 anni con questa presentazione. È stata fatta esattamente 10 anni fa, qui nello stesso posto, all'Emerson. La prima volta della mia vita in cui viene fatta questa presentazione. In 10 anni ha girato in centri sociali, ha girato nelle università, nelle superiori, in corsi di studenti sfortunati che mi hanno incontrato, e in case del popolo, in monte di posti. Una 30ina di volte è stata fatta. Ovviamente c'è stata l'evoluzione, non è quella di 10 anni fa, se no mi sparavano i compagni dell'Emerson, le compagne, ma è una cosa aggiornata, è stata pensata perché tanti di noi, tutti, insomma, tantissimi anzi, vanno comunemente a fare la spesa, a spendere i propri soldi, ogni volta che uno spende un singolo euro della sua vita, decide da che parte va il mercato. Questa è una cosa importante da capire subito, perché tutti danno la colpa al sud, non si paga l'immigrato, lavora piccino a 3 euro, Rosarno e tutto, e poi non si fa niente per evitare queste cose. Si vedrà un po' tutti gli aspetti dell'agricoltura, le cose importanti, ma soprattutto le cose da sapere. Poi io non... cioè, quello che vi voglio trasmettere in questa presentazione è questa: essere informati. Poi ognuno deciderà come spendere i propri soldi, non sono di certo io a condizionarvi e tutto, però se voi siete informati sapete dove va il mercato, dove vanno a finire, che processi vanno a finanziare quello che voi state spendendo. Nell'ignoranza il capitalismo avanza. Questo non è voluto. Allora, va avanti, dai. Procedo. Allora, vediamo subito un po' le etichette, perché quando andiamo a fare la spesa nei supermercati, ovunque, Natura sì, a mercati contadini, ovunque andate, ci sono delle etichette su dei prodotti. Le etichette significano tanto. Allora, ovviamente vi tengo una presentazione molto leggera, non è, si fa un livello easy. Guarda, se scorrete un po', soffro la solitudine, venite avanti. Allora, vediamo un po' questi, vediamo un po' le etichette, no? Quando andiamo a fare la spesa si è detto, insomma, ci sono delle etichette su dei prodotti. La mia esperienza è che tantissime persone non conoscono le etichette. Allora, questa qui, questa è facilissima, si parte le cose semplici. Cosa significa questa? Bio. Ok, se io compro un pomodoro biologico, una passata di pomodoro biologico, chi è che ha detto bio? Gio, eri te? Premio secchione subito. Se lo compro in Spagna, una passata di pomodoro con questo, c'è questo simbolo o no? Cioè, questo è italiano, è europeo o è mondiale? Europeo, ovvero qualsiasi prodotto sotto la certificazione biologica venduto nella comunità europea ha questo simbolo. Ogni tanto si trova anche questi, Q-certificazioni, ICEA, controllo biologico. Che sono questi? Sono gli enti certificatori, ovvero te, azienda biologica, per vendere i tuoi prodotti hai bisogno di pagare un ente certificatore che ti fa dei controlli. Lui dice se te sei, o comunque rispetti tutte le norme per essere biologico. Se secondo loro rispetti tutto, allora puoi usare il marchio. Questo è obbligatorio, questi sono facoltativi. USDA Organic. Cos'è questo? No, non fa il secchione. Lui lo sa. Cos'è? Altri? Birra, che lo è di parte? Stati Uniti, cioè? Ok, lo stesso. Come c'è in Europa la foglia, in tutti i prodotti commercializzati negli Stati Uniti c'è USDA Organic, ovvero anche prodotti che vengono dagli Stati Uniti, vino della California, altri prodotti biologici, li riconosciamo per quello lì, quel marchettino. Poi si va su roba un po' più difficile, agriqualità. Nessuno si lancia? Si scala di posto, si sbaglia? Vabbè, l'agricoltura integrata. Questo è un, è andato di moda 5-6 anni fa, alcuni ancora lo stanno utilizzando, era un marchio per la lotta integrata, per far vedere c'era l'agricoltura convenzionale, stava diffondendosi l'agricoltura integrata. È un marchio che è rimasto facoltativo, però 5 anni fa era diventato obbligatorio per un tot di anni, poi volevano lanciarlo, invece è cambiato tutte le normative e è scomparso, però ogni tanto si trova. Significa che chi usa questo marchio continua a fare agricoltura convenzionale, ma rispetta i tempi di carenza, rispetta determinati tempi sull'uso dei prodotti. Però non è un marchio di qualità, cioè non è che vuol dire fanno biologico, fanno biodinamico, fanno agricoltura sostenibile. Sì, loro la chiamano agricoltura sostenibile, però soltanto usano prodotti chimici dopo aver studiato. Si vede dopo. Insomma, lei sta spiccando, Demeter. Dai, questo è facile. Siamo in un ambiente biodinamico, chi l'ha detto? Biodinamico, bravo. Tutti, ma questo dov'è? Europeo, Stati Uniti, Italia? Dai, dai, l'ha detto. Lanciati. Mondiale, bravi. Questo è mondiale. Demeter è l'unico marchio di questi che è mondiale. Poi abbiamo i vari marchi, quelli di Parmigiano Reggiano, IGP, IGT. Processi controllati, questi sono tutti marchi di qualità, vedete questi qui, si riconoscono più o meno, sono tutti molto simili, ovvero sono i marchi di qualità dei vari prodotti, sono i marchi di qualità dei vari prodotti, ovvero dei prodotti per essere, per esempio la filiera di parmigiano, no? Per essere contraddistinta, o il basilico genovese, per essere valorizzato si inventano, e l'Italia è maestro in questo in Europa, si inventano tutti i marchi di qualità. Non vogliono dire sono prodotti biologici o sostenibili o a impatto zero o impatto limitato, no, vogliono soltanto dire questo prodotto è figo, lo facciamo noi in quest'area, e lo paghi di più perché è vero, è nostro. Vogliono dire semplicemente questo. Questo marchio, questo a Bologna, bolognesi lo conoscono abbastanza bene, Slow Food, è il famoso marchio di Slow Food, i presidi Slow Food. Anche questi 10 anni fa stanno decollando e tutto, poi ci siamo accorti che comunque non è che questi presidi Slow Food sono una grossa rivoluzione, ma tutti i marchi di qualità che stavano dando. Non so, si può aprire anche un'assemblea, una riunione infinita su questi temi, però sono dei marchi di qualità che hanno provato a dare e non sono mai decollati in verità. Slow Food ha funzionato e decollato cercando di valorizzare dei percorsi, però essendo affini con le istituzioni comunque hanno perso un po' la loro natura indipendente e quindi sono stati un po' svalutati dai movimenti e dagli agricoltori un po' più coscienti. Genuino clandestino. Questo, questo è il nostro marchio, è un'etichetta, comunque viene messa o non messa e fa parte di quella rete alternativa di contadini che rifiutano le certificazioni biologiche e ti dicono guarda, noi siamo biologici da prima esistesse il biologico, noi contestiamo la gestione e la certificazione biologica perché è imbarazzante come vengono fatti i controlli e tutto quello che c'è dietro, che è un mercato spesso capitalistico che cambia poco dal convenzionale, non esce da quelle logiche, ma soltanto voi mi dite fate un prodotto più sano. Per contrastare tutto questo è nato anche questo marchio, poi questo marchio è tanto in più e magari si vede anche dopo un po' di più, ma andiamo subito su un po' di cose più ganze. Le uova, tutti si mangia uova. Le uova, sopra ogni uova che compriamo nel supermercato, comunque compriamo nell'elementare, ovunque le compriamo, c'è un marchio, un codice. Questo codice qua, l'avete mai visto? Certo. Dragolo, compro le uova, le porto, non le ho portate, scusatemi. E c'è un codice. Qual è il numero più importante? Allora, tutto questo codice è importante, perché se voi mangiate un uovo e vi sentite male, cascata al suolo, si va a vedere questo uovo e questo uovo ci dice tutto, ci dice chi l'ha prodotto, come è stato prodotto, se è italiano o no, in che zona dell'Italia, in che regione, in quale azienda, addirittura in quale lotto. Può risalire addirittura a quale lotto di galline. Sì, sì, sì. Sto bociando. Si può risalire a quale lotto di galline hanno prodotto quell'uovo. Ovviamente non quale singola gallina, ma quale gruppetto di 10 galline ha fatto quell'uovo. Sono importanti i numeri, sì, sono importanti tutti, però siccome non ci si possono ricordare tutti, ricordiamoci un numero soltanto, il primo. Il primo numero ti dice questo, tipo di allevamento, che, tipo di allevamento delle galline per produrre quell'uovo. Okay? Poi il secondo, vedete, IT, Italia, comune, paese di produzione, codice dell'allevamento, sono tutti importanti, però l'unico fondamentale è il primo, secondo me, il primo numero. Qui c'è scritto 3. Cosa vuol dire quel numero? Sapete subito, così a cazzotto, qualcuno? Che vuol dire 3? Sì. Ok, 3 qual è? Te l'ho messo, quindi no, sarà quello cattivo, se no. Codice 3, allevamento in gabbia. In pratica, il primo numero ci dice come viene gestito l'allevamento di quelle galline. Il 3 è il famoso allevamento in gabbia. In Italia è legale l'allevamento in gabbia? Sì o no? No, è proibito dalla Comunità Europea perché è contro le norme del benessere animale. Si continua in Italia a gestire i polli e gli allevamenti in questa maniera? Sì, perché? Ok, perché cioè, sicuramente è molto produttivo, perché in pratica la Comunità Europea ci fa delle multe, però per gli allevatori, per l'Italia, è più conveniente pagare quelle multe, sono bassissime, mantenere questo livello di produzione che ci permette di esportare, che cambiare modello di produzione e proibirlo. Ora sono state fatte delle modifiche l'anno scorso, o 2 anni fa, non mi ricordo esattamente, in pratica è stato dato un po' più di spazio. Quando si parla dell'allevamento numero 3, cito sempre il famoso foglio. Cos'è un foglio rispetto a un allevamento di tipo 3 rispetto alle galline? Lo spazio vitale, ovvero in quel progetto, in questa forma di allevamento, ogni gallina ha a disposizione questo foglio, un foglio a 4. Quindi se ci sono 4 foglie a 4, vuol dire ci sono 4 galline. Un po' ghiacciante? Comunque sì. Questo modello di allevamento è imbarazzante, il più peso che esiste, a livello europeo, comunque in Europa tutte le stanno smantellando, in Italia siamo rimasti proprio su questo modello, perché le multe sono cioè sono tante, ma ci conviene più produrre, questa è una cosa agghiacciante di mercato mondiale. Come? Ok. Sì, stessa cosa. Sì, queste ti fanno capire un po' come funziona il mercato, no? Allora, solo una volta mi è capitato a Bergamo di entrare dentro un allevamento del genere, è una cosa agghiacciante. Se questi allevamenti sono super vietati, nessuno può entrare lì dentro, ci sento perché devo fare un lavoro di campionamento a culo, perché se ognuno di voi o qualcuno di voi o uno di soltanto dei vostri amici entrasse una volta qui dentro, scatta una foto, ve la fa vedere, difficilmente voi riuscireste a comprare un uovo di tipo 3, quindi... Qual è la prima cosa? Chiudere questi allevamenti. Questi allevamenti sono famosi allevamenti completamente chiusi. Sono dei capannoni murati, chiusi, tutti bui, con le luci artificiali, perché le galline se le incrementi in fotoperiodo di 3 ore producono ancora più uova. Allevamenti in batteria, la famosa razza ibrida, non so come si chiama, gallina comune ovaiola, 330 uova, 365 giorni. La macchina da guerra. Gallina normale, toscana e tutto, 200-250 uova, 365 giorni l'anno. Vediamo gli altri tipi di allevamento. Codice a terra 2. Che significa 2? Lo stesso. Eccolo qua. Sempre un foglio a 4, non cambia niente. Soltanto non è sovrapposto. Cioè, non sono una sopra l'altra, sono soltanto a terra. Però l'allevamento è lo stesso. Sempre un foglio di... Cioè, te puoi mettere gallina in base a quanto è grosso il tuo capannone, misurando la superficie utile a gallina. Allora, la caratteristica di questi tipi di allevamenti qual è? L'antibiotici. Ovvero, gli antibiotici sono proprio, vanno tutti. Ah, qui è una parte interessante. Avete presente, mi ricordo sempre mio nonno, no? Che mi diceva il famoso pollo. Mangiava il coscio di pollo, la rostinciana di maiale, pigliava questo pollo, c'aveva 3 denti, però comunque stava lì, rosicchiava e ci stava un'ora e mezzo. E non riusciva mai a pulirlo. Ora va alla rosticceria, va alla Coop, compri un pollo, quello precotto, cotto, da un morto, e l'osso è perfetto. Ma è successo? Se prendete un pollo dal contadino, ci mettete mezz'ora a mangiare quelle rosticciane qui il pollo. Perché? Perché? Perché l'osso, ok, E in pratica quello che non si mangia del pollo, del coscio, ad esempio, è il muscolo. Il muscolo, per essere attaccato all'osso, c'è la cartilagine. Se un muscolo si gonfia e cresce in maniera normale, in pratica la cartilagine continua a crescere insieme a lui, cresce insieme e lo tiene attaccato. Questo è il motivo per cui il nonno perdeva anche l'ultimo dente per riuscire a pulire quello e ci metteva un'ora e mezzo. Invece la carne di oggi è super ormonata. Vengono dati gli ormoni servono a far gonfiare i muscoli, si riempiono d'acqua e vengono prodotti, vabbè, c'è tutta una cosa chimica, però si gonfiano talmente veloce che la cartilagine non riesce a crescere abbastanza veloce, anche perché la cartilagine è vista come un difetto. Quindi gli ormoni nessuno è pensato e sviluppato per far crescere la cartilagine, ma tutti per far crescere il muscolo. Quindi se le carni sono ormonate, te ne accorgi da quello lì. Quando compri quel pollo, da un morso e ti rimane l'osso in mano, te stai mangiando ormoni. Gli ormoni sono utilizzabili in Italia negli allevamenti? Sì o no? No, sono proibiti, cioè c'è una cosa che non torna. Gli ormoni sono proibiti, non si possono usare ormoni per l'allevamento in Europa addirittura, e nemmeno in Italia. Negli Stati Uniti c'è la pubblicità che fa vedere le vacche frisone e tutto, fanno: se tu non usi l'ormone XX stai perdendo soldi, c'è pubblicità agghiaccianti, sono da matti. Dice: se te non usi l'ormone della crescita della vacca, tu stai perdendo chili di... Cioè, proprio c'è pubblicità in televisione, rivolta agli allevatori in determinati stati, ovviamente, che pubblicizzano gli ormoni. In Italia gli ormoni sono proibiti. Però questi animali... Su tutti gli allevamenti. Non si possono utilizzare ormoni. Però gli ormoni sono contenuti dove? No. Negli antibiotici, nei farmaci. Quindi che succede? Se te usi un modello di allevamento in questa maniera, questi animali si ammalano. Però se si ammalano è anche un bene, perché se loro si ammalano, te li sta dando gli ormoni. E siccome sei sicuro che loro si ammaleranno, te gli dai subito gli antibiotici preventivi, per essere sicuro. Ovviamente è come noi, no? Se uno si ammala, prende l'influenza, se uno di voi c'ha l'influenza, comincia a starnutire, siamo tutti qui chiusi per 2 anni, ci si ammala tutti, ritorna. Non c'è cambio d'aria, non c'è cambio, non possono uscire fuori, non c'è luce, non c'è finestre, tutti si ammalano. Quindi vengono date antibiotici in maniera preventiva, in maniera massale, e in questa maniera loro stanno dando gli ormoni. Quindi non è importante se gli animali sono malati o no, l'importante è dare questi antibiotici. Do gli antibiotici, do gli ormoni, il pollo mi gonfia. Un pollo che normalmente ci metterebbe 3 mesi a raggiungere 1,5 kg per essere ucciso, ci mette 38 giorni. Questo è il record. Quindi cresce, si gonfia, la carne gonfia, il cartilagine rimane attaccata all'osso, do un morso e mi rimane l'osso in mano. Un po' la paranoia, visto, tanto è capitato a tutti, credo. Codice 1, all'aperto intensivo. Ovvero il codice 1 vedono il pratino. Sì, però il pratino che vedono, in proporzione c'hanno, se c'è un capannone di 1000 metri, un terzo di capannone deve essere dedicato, per mettere quel codice, all'allevamento all'aperto. Vuol dire una cosa agghiacciante comunque, perché sì, c'hanno una parte all'aperto, però una parte minima, comunque questa parte, vedete qui con il pratino all'inglese e tutto, dura 1/4 d'ora, perché mi ci mandi 2000 galline in 200 metri quadrati, dopo un giorno non c'è più niente. Questa, la foto è stata fatta ovviamente per fare queste slide di pubblicità, c'era il pratino, ma non è mai in questa maniera. Codice 0 all'aperto estensivo, in più biologico. Allora, anche sull'allevamento biologico sarebbe da aprire, perché quando si fanno la pubblicità e quando la vedete alla Coop c'è questa foto. Poi se va a vederli, il pratino così non c'è mai. Sono sempre ovviamente quantità, migliaia e migliaia di galline messe su un pratino, a rotazione e tutto, ma con... Questo è il primo anno, ci si è fatto la foto, fra 3 anni questo è un terreno completamente acidificato dalle urine, dalle feci delle galline, e non è che l'allevamento si sposta o sposta il capannone o sposta il mattatoio, no. Loro rimangono qui, il capannino e lo zio Tom va bene per la foto, però generalmente non è così, insomma generalmente sono per questa maniera. Se anche voi vedete degli allevamenti, difficilmente si continua a comprare le uova del supermercato. Se ovviamente perché si sta in città, perché per scelta, perché costano meno e tutto, si vanno nei supermercati a comprare le uova, il consiglio che vi do è almeno questo, 0. Qui siete sicuri che non vengono usati gli antibiotici, ok? Di là si usano. Gli antibiotici sono anche nelle uova? Si trasmettono? Certo. Non si usano. Allora possono usare, sì, no, allora, nei biologici si possono usare degli ormoni, però degli antibiotici, però sono roba molto più blanda, che generalmente se ti attacca 2 galline, 3 galline, ammazzi 1000 galline. per evitare che te ne muoiono altri 10.000. Se di qua bombardano da antibiotici, sì, è sempre un film horror, però... Ah, scusa. Allora, gli ormoni non si possono utilizzare, però gli ormoni sono contenuti all'interno degli antibiotici. Quindi, se nel 3, nel 2, nell'1 l'uso degli antibiotici è comune vuol dire una volta a settimana, dato sia per evitare che gli animali si ammalino, sia per far crescere e gonfiare gli animali. Nello 0, gli antibiotici, quelli convenzionali che si possono utilizzare normalmente, non si possono usare. Si usa degli antibiotici ammessi in biologico, sono roba molto più blanda, estratti di piante e tutto. E si preferisce fare abbattimenti di grosse quantità di animali piuttosto che intervenire in maniera drastica. Si fa gli abbattimenti preventivi, ovvero, vabbè, ve la evito. 5 di voi si ammalano, si fa piazza pulita in modo che tutti quelli di là, per fare un paragone, non si ammalino. Ok, allora, quanto costa un uovo in un mercato genuino clandestino del contadino fatto con prodotti di scarto della produzione agricola, degli ortaggi e tutto, con la gallina e pascola felice e contenta? 50 centesimi più o meno in Italia, confermi? Allora, sì. Allora, più o meno il prezzo medio, da quello ho visto io in Italia, da nord a no, sud ostano un po' meno, però da, insomma, il prezzo medio secondo me è 50 centesimi delle uova nei mercati contadini. Quello è il prezzo medio. Un uovo biologico quanto costa? Allora, c'è di tutti i prezzi. A natura sì, quanto costa? 75 centesimi. Costa più del mercato. Normalmente alla Coop vanno sui 40, 38, 40, 42 centesimi. Quanto costa al mostro? 15, 10, da 10 a 20 centesimi. Ovvero, se prendete quelli che trovate Penny Market, ultra offerta, era 60 centesimi, 6. Però capite, 10 centesimi per forza deve essere. Poi vabbè, ci sarebbe da aprire un capitolo anche sui mangimi, li vengono dati a questi animali, ma... non è il momento. Comunque, quello che vi dovete ricordare è il codice. L'unico numero importante è il primo, dal 3 allo 0. Se dovete scegliere, scegliete lo 0. Sì, vi costa un euro e mezzo in più se uova, sì. Però, che vi mangiate? Come vivono quegli animali? 50 centesimi le uova dei mercati genuino clandestino, mercati contadini. So 3 euro. 3 euro, sì. Non so. Bene, però se le compri, secondo me quell'euro e mezzo e ti spendi per mangiarti l'uova tre uova a settimana, io preferisco spendere in un mercato sostenendo un contadino, la produzione è un modo diverso di fare. Qui altro quelle galline producono 200 uova l'anno, no, quelle ne producono 330. Allora, siamo del Chianti, questa vi tocca. Questa è la classica foto del Chianti più o meno a fine aprile, inizio maggio, in cui passi e tutti dicono: ah, che belli questi vigneti, bellissimi. Ora no, no quelli di settore. Un vigneto in questa maniera, una bella foto così romantica, rossa e tutto, verde, parla e racconta un paesaggio. Cosa vuol dire? Cioè, che vi viene in mente se vedete un campo del genere? Un vigneto del genere? Diserbante. 90% delle volte che danno? Glifosate. Ovvero, se io vedo un campo in questa maniera, dove sotto le piantine non c'è un filo d'erba, anzi quel filo d'erba è rosso, vuol dire che è stato appena spruzzato, comunque da una settimana, 10 giorni, glifosate, famoso erbicida messo a bando in tantissimi stati europei, però la comunità europea da quando l'ha comprato, glifosato era della Monsanto, tutti gli facevano guerra, poi la Monsanto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, è stata comprata dalla Bayer, la Bayer è una multinazionale tedesca. Quindi da quando l'ha comprato la Germania con la più grossa multinazionale tedesca, la Germania è diventata a favore del glifosato. La Germania, contando più di tantissimi altri stati, è riuscita a bloccare, comunque rinviare di altri 5 anni, la messa a bando del glifosato. Glifosato ad oggi è al bando dalla Spagna, dalla Grecia, dal Portogallo. In Italia l'uso è stato limitato, ovvero nella pratica. Lo sanno tutti che è veleno, lo sanno tutti che è cancerogeno, però siccome è prodotto più venduto, è prodotto e fa fare tantissimi soldi alla multinazionale, non lo possono bloccare perché perderebbero il 20-30% del fatturato. Però è un prodotto agghiacciante. Quando vedo un campo in questa maniera, questo è un prodotto in cui è stato dato il diserbante. Questo è il famoso vino di Menga, che viene comprato a 2,20€, 2,50€, 3€ più delle volte al supermercato. Che vino va comprato a 2€, 3€ sicuramente, non è che c'è dubbio, forse sì, forse no, no, lui lo fa in maniera diversa. No, quel vino che costa da 2 a 3€, 3,50€, è questo. Vino che sicuramente è stato utilizzato il glifosato. Poi il glifosato è l'antipasto della produzione vitivinicola, perché te parti il glifosato e poi c'è tutta una serie di prodotti e dai per ottenere l'uva perfetta, che è tutto un altro mondo. Comunque, vino a basso costo. Vai, che buono. No, perché è un argomento veramente politicamente interessante. Sì, sì, c'è stata una sentenza adesso, non so dirti la città o lo Stato, negli Stati Uniti, dove dopo molte sentenze, molti casi, molte cause contro la Monsanto, che sono veramente tante, è stato attribuita una somma veramente molto elevata a una vedova di un personaggio che veramente usava il Roundup Ready, nel suo giardino come erbicida, e la Monsanto è stata condannata adesso a pagare diversi milioni di dollari alla vedova del personaggio che si è ammalato di cancro, perché non è solo il male, così con termini vaghi, è cancerogeno. Quindi di nuovo da lì al prodotto che consumi tu, cioè la quantità di glifosato che entra nel tuo corpo non è che produce cose X vaghe, se parli di una roba cancerogena è più o meno tutto comprovato, ormai c'è scienza dura, quindi non dirlo perché appunto... Allora, io ve lo fo in maniera leggera tutti gli argomenti, poi ovviamente cioè, se volete approfondire si approfondisce, chi vuole intervenire intervenga, è bello di queste cose che sono occasioni per scambiarsi informazioni, commenti, cioè, bloccate quanto volete. Poi c'è il degrado, questo è il tipico vigneto come può essere quello di Mondeggi, il caos, erba alta che non si è fatto in tempo a pulire, erba alta dappertutto. Che ti dice una foto del genere? Se un contadino di 60 anni vede un vigneto di genere, gli dice, questi sono sfaticati. Ritorna? Di sicuro. Perché ti dice? Non hanno pulito l'erba sotto, hanno sfalciato male, c'è l'erba in mezzo. Che è questa roba? Dice, è un vigneto gestito male. No, questo è il futuro. Ovvero, chi ha cominciato a fare ricerca, studi sulla sostenibilità dei vigneti, ti dice, un vigneto gestito in questa maniera è oro. Ovvero, mantenere la biodiversità, quindi vigneto inerbito da tutte le parti, sul filare, sulla fila, ovviamente l'erba andrebbe tenuta un po' più bassa, però in questo caso abbiamo dei vigneti un po' più alti, quindi l'aria permette di passare. Se passa l'aria, se c'è una bella biodiversità, in pratica l'aria si muove sotto il filare, sopra il filare, asciuga dopo le piogge, riduce il rischio di malattie, utilizzo meno rame, meno zolfo e meno di altri prodotti e ci avrò sempre meno malattia. Più c'ho biodiversità, più vuol dire il terreno è vivo. Ovviamente, una cosa importante, questo si dice agli studenti, che era di tutto, il buono delle piante, il buono del vino, il buono di tutte le cose che coltivo nasce dalla terra. Noi quando coltiviamo non dobbiamo coltivare una vite, un pomodoro o una melanzana, noi dobbiamo coltivare il suolo. Se il suolo è buono, se c'è una sostanza organica buona, se ci sono microrganismi buoni, qualsiasi cosa io coltivo verrà bene. Ricordiamoci che la perdita della sostanza organica, l'inquinamento dei suoli è una delle cause di riscaldamento globale attraverso l'innalzamento della CO2. Quindi mantenere la sostanza organica, mantenere la fertilità incide e tanto sui cambiamenti climatici. Quando vedete un vigneto in questa maniera potete essere sicuri che è gestito da persone responsabili e vengono utilizzate tecniche biologiche. Possono essere anche tecniche convenzionali, però già vuol dire che c'è un'accuratezza, insomma un'attenzione da parte dei produttori alla gestione della produzione del vino. Ritorna? Insomma, vino in campo in questa maniera, non credete a sessantenni, fino a sobroccioni, dire no, questo è un modo giusto di gestire il vigneto. Il modo di prima, lo può rivedere, è un disastro. Ok? Poi questa roba, quando piove, glifosati dove va? Va nella falda, la falda va nel fiume, o se no la falda va nel pozzo che si tira sull'acqua e si beve, o si dà da mangiare alle galline, va nelle uova, entra in tutto il ciclo alimentare e poi ce lo rimangiamo. Piove, va giù. Quando va giù, dove va? Va nel fiume, il fiume va alla città dopo, è sempre lì. Ah, questa è una bella foto che ho inserito da poco, che mi piace un monte. Oltre l'uva ci può essere una bottiglia di vino, questa è una cosa ganza e spesso non conosce nessuno. Allora, per fortuna non lo leggete, questo è un vino convenzionale, ovvero il vino che trovate che non ha un marchio di biologico, biodinamico, ovvero il 99% di vini che trovate in vendita, sono vini che possono contenere questi prodotti. Questi prodotti non leggete, sono tutti prodotti chimici messi apposta per migliorare le qualità del vino, per dargli un gusto stabile negli anni e per levare eventuali problemi. Non si vedono, ma sono tutti prodotti chimici e possono essere aggiunti. Quali di questi prodotti è obbligatorio mettere in etichetta? Contiene solfiti. Allora, in tutte queste cose uno è scritto contiene solfiti, è questo. Tutti questi altri prodotti non possono essere messi. Contiene solfiti è il prodotto più innocuo che ci può essere, che solfiti già lo contiene il vino di per sé, è un prodotto che serve per abbassare la carica di lieviti e di batteri, viene utilizzato in tutti i tipi di vino, però è un prodotto che, sì, quando c'è tanta solforosa ce ne accorgiamo perché ci viene un grosso mal di testa il giorno dopo. Solforosa è una delle prime cause di quel cerchio nella testa dopo una grossa sbronza. Però quella grossa sbronza, ovviamente prendendo vini a 2 euro, vi accorgete che insomma, si sente di più rispetto a prendere un vino in un mercatino, di un vino a 5-6 euro, un vino naturale, rispetto a altri. Biologico, uguale, stessa zolfa. Obbligatorio, sempre la solita cosa, quello che si può mettere in biologico è 2/3 di quello del convenzionale. Demeter, 10 prodotti. Vino naturale, eccoli qua, 2-3 prodotti. Questo perché, per farvi capire, quando uno compra un vino naturale è un po' rischioso, perché il vino naturale ti racconta la storia di un terreno, ti racconta la storia di un'annata. Il 2004 ha piovuto a dritto, chiunque ha fatto il vino naturale ha fatto un vino penoso, perché era un vino con difetti, un vino con tanta peronospora, un vino con tanto marciume, un vino che puzzava, aveva un odore forte. Però tutti quelli hanno fatto il vino naturale, tutte le volte stappate una bottiglia di 2004, per fortuna o per sfortuna, vi ricordate quell'annata e poi beveva tantissimo. Il vino naturale è un vino che racconta l'annata. Invece questi vini chimici, loro ti dicono, vino, boh, ditemene uno, Chianti Holly Senesi, vino 2,30 euro, vendono negli Stati Uniti a 35 euro. Tappo di silicone, in pratica, che ti dicono questo vino? Te il vino lo può fare anche di merda, ovvero io do prodotti chimici, il vino mi sta ammuffisce, mi viene male, lo taglio con altri vini, mi vengono dal sud, dal nord, non importa. Tanto io ho bisogno di una massa di vino, poi metto prodotti chimici all'interno per stabilizzare il gusto. Prima di tutto per bloccare qualsiasi possibile reazione. Devo uccidere lieviti, batteri, potrebbero far partire altre fermentazioni una volta il vino è fatto. E aggiungo coloranti, antiossidanti, roba per incrementare l'odore, roba per incrementare il colore, posso aggiungere di tutto per stabilizzare il vino. Ovviamente se io mi innamoro del vino Chianti Colli Senesi, vino di merda, però vabbè, se io mi innamoro di quello, te tutti gli anni ti bevi quel vino, te c'è l'annata 2005, 2006, 2007, 2008, sono tutte identiche, perché il vino deve essere identico, te ti innamori di un sapore e quel sapore deve rimanere uguale, se quel sapore cambia di anno in anno, te può essere l'anno dopo non ti garba e cambia azienda. Quindi nessuno vuole questa cosa, loro vogliono allamarti. Quindi si usano prodotti chimici per stabilizzare il sapore. Il vino biodinamico ovviamente è già molto diverso, il vino naturale no, il vino naturale c'è, cioè, becchi l'anno buono, clamoroso, becchi l'anno che lo bevi lo stesso perché è di contadino tuo amico, ma è migliorabile sicuramente. Quanto costa un vino naturale in un mercatino cileno clandestino, poche pubblicità? C'è un bellissimo mercato in Piazza Tasso a Firenze e un altro all'Isolotto, venerdì e martedì, ma ci sono mercati in tutta Italia, quasi in tutte le città d'Italia. Basta informarsi e andare nel sito, cileno clandestino e mercati contadini. Quanto costa un vino mediamente, un vino di questi? 7 euro. A Firenze quanto costa? Ah, quanto? 6 euro di Mondeggi che si è messo l'etichetta e si è fatto figo. Se no, normalmente tutti lo vendono a 5 euro. Ok, 5 euro. Quanto costa il vino, i Colli Senesi, i Chianti, o il vino alla coppa, i vini da poco? 2,30 euro, 3,10 euro, 3,30 euro. Ok, quella differenza. Quella differenza è quei 2 euro, 2,50 euro, 2,70 euro fra un vino gestito in maniera senza usare glifosate, col contadino che lavora, che prende il suo stipendio, un vino che parla della tradizione contadina, un vino che racconta un territorio, un vino che racconta l'annata, contro un vino fatto in laboratorio. Quei 2 euro... Sì, sì. Quello naturale costa di più. Sì, perché se trovi il vino di merda al supermercato e costa 10 euro tranquillamente. Sì, sì, no, però il vino di merda costa meno, costa 2,30 euro. Quello lì. Sì, però anche quello costa di più resta convenzionale o quella stessa roba. Sì, sì, no, voglia. Allora, perché una bottiglia convenzionale di merda e tutti, Sassi Haja, facciamo un po' la storia di Sassi Haja, perché una bottiglia costa 800 euro? Ci fu un grosso scandalo, vabbè, leviamo Sassi Haja, comunque... Vabbè, no, non siamo, perdo il lavoro. Mi fugna. Allora, perché alcuni vini costano 500? Allora, un vino, normalmente un vino buono di 10 anni, fatto benissimo, a modo, con botti di rovere e tutto, ha un costo di produzione di 12 euro. Tutto quello che costa più di 12 euro sto pagando già all'imprenditore, sto pagando già all'operaio, tutti i costi, tutta la filiera. Perché quel vino che costa 12 euro, invecchiato 10 anni, io me lo trovo a comprare a 500 euro, a 600 euro, a 700 euro? Cos'è quella cosa che fa alzare quel valore? Show business, ovvero quanto chi te lo marketing, quanto chi te lo vende è bravo a dirti quanto è figo il suo vino. Però non ha motivo. Cioè, e quanto ti piace spendere? Però perché? Perché fa figo comprare un vino che costa 500 euro. Però qui vino quanto costa 12 euro uguale. Se voi lo pagate 2.000 euro, lo pagate 50, lo pagate 20 euro, lui gli è costato 12 euro. E con 12 euro lui si guadagna 2.000 euro in mese e l'operaio piglia 1.500 euro in mese uguale. Quelle che costano più è in marketing. Come fanno tante aziende? Una delle più famose è un'azienda X. In pratica fece un'asta. Fece un'asta di vini dicendo, ok, vendo un lotto da, non mi ricordo mai, mettiamo 100 bottiglie di vino. Dette tipo 800.000 euro a uno voleva andare a comprare questo vino e altri 800.000 euro a un altro voleva andare a comprare questo vino. In pratica partì quest'asta famosa e uno cominciò a offrire 50.000 euro, 100.000 euro, 130. Alla fine se l'ha giudicato uno di questi due per 800.000 euro. E uscì su tutti i giornali, diceva, vale, questi matti hanno pagato 800.000 euro per 100 bottiglie di vino, 100, 150, 200, non mi ricordo. Quindi tutti i giornali parlarono di questo vino famoso e tutto, e tutta la gente ha detto, cazzo, questo è un vino strafico, poi la volta dopo invece di costare 1.000 euro era in vendita a 250 euro. Te sai, questo vino è stato comprato all'asta a 1.000 euro, lo vendono a 250, che fai? Lo compri subito. Però magari non voi, ma generalmente la gente lo comprano tutti, quindi l'hanno comprato e l'hanno venduti tantissimi. È venuto fuori dopo 10 anni che in pratica era tutta una truffa. Ovvero era stata l'azienda a dare 800.000 euro per comprare questi bicchieri, queste bottiglie di vino e poi questi 800.000 euro sono tornati all'azienda. Rendete conto, elevati i costi dell'asta ovviamente. Quindi una mossa di marketing perfetta, bellissima, studiata al tavolino e gli ha funzionato. Gli ha funzionato talmente bene, è diventata una delle aziende più famose d'Italia, ha fatto 1 milione e 1 milioni di euro e sta continuando a fare grazie a una truffa. L'hanno multati di 1 milione di euro per truffa, concorrenza sleale, ma ne hanno fatti 150. Dei maghi della truffa. Quindi tutto quello è vinto Ortal e tutto in marketing. Allora, non esiste un vino buono per tutti. No, il vino è una cosa soggettiva. Un vino a voi piace è un vino buono. Il prezzo è quanto voi siete disposti a pagare. Però un vino che costa 50 euro, da 50 euro, da 30 euro in su, sapete che state pagando marketing. Questo dovete saperlo. Va bene? Vino? Cioè, io mi garbo a toccare un po' tutti gli argomenti. Poi ognuno potrebbe essere... Allora, fuori suolo. Questo è il Garbomonte. Allora, questo è un cult. Allora, fuori suolo in pratica, ad oggi in Inghilterra il 98% degli ortaggi che voi comprate in Inghilterra vengono prodotti in questa maniera, un fuori suolo. In Olanda è la quasi totalità, in Italia un 20-30%. C'è un'azienda enorme anche qui vicino a Firenze che in pratica fa tutti i pomodori e canestrini e vengono comprati, acquistati alla Hop, scusami, vengono prodotti con questa tecnica. Fuori suolo in pratica è una tecnica nata 50 anni fa circa, nel dopoguerra, e ti dicono il suolo, io ho un terreno, e cos'è che guadagno a fare orticoltura? Guadagno con pomodoro, cetriolo e zucchino, tutte le altre cose, il ravanello, la barbina rossa, il radichino, la rucola, sono roba che io azienda mista fo per vendere quello con cui guadagno, perché guadagno lo vero lo fo su quei tre prodotti, quindi un imprenditore e ti dice: se io ho un ettaro, voglio fare per la quasi totalità pomodoro, zucchino, cetriolo, e una piccola parte voglio fare l'altra cosa. Dopo 2 anni fanno solo pomodoro, tutti. Perché pomodoro su pomodoro su pomodoro, dopo un po' il terreno diventa un terreno morto, e quindi devo cominciare a dare prodotti chimici per uccidere gli insetti dannosi, i funghi dannosi che mi si sviluppano, e il terreno muore completamente, perde vitalità, perde biodiversità, perde vita. Un terreno senza vita è un terreno in cui non cresce più niente. Il terreno di deserto, ad esempio, è un terreno senza vita. Il terreno dell'Antartide è un terreno senza vita. C'è vita, ovviamente, microbica, c'è roba, però è talmente minima, talmente bassa, che non permette lo sviluppo corretto delle piante, oltre ovviamente al clima. Infatti ci hanno fatto poi cose, il fotovoltaico. Sì, però... No, c'è una cosa Nissara. C'è una cosa Nissara dicevano, ok, qui non ci viene niente, non ci viene l'ortaggio, hanno fatto tipo 10 ettari di cemento armato, ci hanno messo le serre. E dice, visto ora si coltiva. Sì, sì, certo, terreni super sfruttati, non più produttivi, che fai? Non è che dici, ok, cerco le tecniche per farlo rendere produttivo, o ci fa un parcheggio, o ci fa un supermercato, o ci fa, se voglio rimanere imprenditore agricolo, un bel super fuorisuolo. Fuorisuolo, questo è il classico esempio di fuorisuolo. Oh, ah, questa è una serra. Era per rendervi partecipi. Questa è la serra di fuorisuolo, ovvero, si vede un po', pianta di pomodoro, fusto, eccola qua. Cosa c'è qui dentro? Sì, però prima dell'acqua? Substrato inerte, che può essere lana di roccia, argille, cocco, fibre di cocco, perlite, può essere un monte di cose. Insomma, un substrato, mettiamo per capirsi, ghiaia, cioè un materiale che non ha caratteristiche, non ha niente, un ghiaino, perché tanto tutti gli elementi nutritivi vengono dati con l'acqua. Acqua più sostanze minerali, azoto, fosforo, potassio, più microelementi, fanno crescere la pianta. Fanno crescere la pianta in maniera esponenziale, velocissima e tutto. Cosa sono questi qui, questi binari? Che c'è qui dentro? Questo è il riscaldamento, basale per scaldare le radici, la parte bassa, il riscaldamento alto non si vede. Questi sono i famosi riscaldamenti. E poi in più qui sopra ci sono dei carrellini con dei pulsanti che riescono ad andare alti fino a 6 metri, perché queste piante raggiungono altezza di 10, 12 metri, 13 metri. Le piante, i carrelli vanno in su. Il 30% dei pomodori che ti mangi in Italia vengono fatti in questa maniera. Il 90% o più di quelli in Inghilterra sono fatti così, in Olanda, che è il primo stato europeo, la quasi totalità. Questa è una tecnica che si è diffusa tantissimo, perché? Perché hanno visto soldi, quelli veri. La levo? Volevi vedere ancora? Allora, perché si è svantaggi? Elevati costi di impianto. I giovani studenti d'agraria neanche si mette a fare l'impianto di agricoltura idroponica o fuori suolo, perché costa tantissimo. Lo fanno gli imprenditori finanziati da banche, finanziati da grosse ditte, ad esempio Coop, Conad e tante altre, stanno finanziando questi progetti in tutta Italia. Ne è nata una di 16 ettari in Grossetano, c'è qualcuno di Grosseto? Casole d'Elsa? No. Insomma, ci sono grosse aziende, sono nate ora, aperte nell'ultimo anno, tutte in quella maniera. Necessità di tecnici, ovviamente per fare una serie di generi ci vuole 3 lauree, non è che è una cosa comincia a fare e metto a fare il pomodoro in quella maniera. Sapore e odore, per quanto ci provino, per fortuna quei pomodori ancora fanno cacare. Per fortuna, dico io, perché se quei pomodori diventano uguali ai pomodori che fa il contadino, questo mondo è rovinato. Ci arriveranno, sono migliorati tanti. Perché io mi ricordo 12 anni fa in Inghilterra si faceva il pomodoro e compravi fatto in quella maniera, la pasta rimaneva bianca, il pomodoro scompariva, rimaneva la bucciona e non sapevano di niente. Comunque, sono migliorati tantissimo, per fortuna ancora il pomodoro non c'ha quel sapore, non è paragonabile al sapore nostro. Più che il sapore, cioè fuori è perfetto, colore, dimensioni, perfetto. Ci massacrano l'agricoltura contadina, pomodori perfetti, senza una malattia, senza niente, bellissime, pezzatura. Sapore e odore imbarazzante, perché crescendo veloci, come polli, non sviluppano caratteristiche organolettiche, sapore e odore essenzialmente, paragonabili. In più c'è il famoso impatto ambientale, ovviamente quella roba si è visto prima. Per crescere ha bisogno di prodotti chimici, bombe, spinte, per farvi, vabbè, molto semplice. Un pomodoro per crescere, mettiamo, in questa fase qui ha bisogno di 2 kg d'azoto, 1 kg di fosforo e 1,2 kg di potassio per 10 metri cubi d'acqua. Quando gli do questa roba, le dosi le alzo un pochino e magari quel giorno c'è ombra, il pomodoro cresce meno perché assorbe leggermente meno e quei prodotti in più che fanno la pianta non l'assorbe. Dove vanno a finire? Vanno a finire nel fiumiciattolo dietro la serra dove scarica. Quindi vai a vedere, vai a fare un giro di queste serre, bellissimo, siamo andati anche all'università, ma nessuno ti porta a fare il giro di perimetro. Se vi capita, l'invito è before you, fatevi un giro di perimetro. Dopo aver ascoltato lui, è un eroe, il più figo di tutti, fa pomodori buonissimi e tutto, uscite e vi fate un giro intorno alla serra. C'è sempre un tubo che scarica in un canaletto dove c'è eutrofizzazione, alghe, acqua gialla o verde, perché tutti questi elementi in più vengono scaricati direttamente nei fiumi. Ora hanno reso obbligatorio dei filtri, però chiunque ha filtri costano un monte, non le ha, insomma c'è un disastro ambientale clamoroso. Quindi, belle queste serre, se va facile è tutto, ma fatevi un giro sempre dietro le serre. La domanda un po' scontata, perché si è diffusa questa tecnica? Vaini, si dice, perché ci si fa un monte di soldi. Incrementa il reddito di ressa attuale di pomodoro da fino a 60 kg in metro quadro. Un metro quadro, un metro per un metro, 60 kg di pomodoro. Sapete, sono 60 kg di pomodoro, tanti. Il record mondiale. No, una cassa, io una cassetta normale sono 6 kg. Sì. Ok. Le casse normali, quelle del gas, c'entra 6-7 kg. E le casse normali del gas c'entra 6-7 kg. Sono 10 cassette in quella maniera per metro quadro. Se c'è una serra da 10, un ettaro, sono 10.000 metri quadrati, si capisce, sono 4 camion al giorno che escono. Il record mondiale è in Italia, 135 kg di pomodoro il metro quadrato. Quanto produce in agricoltura contadina un metro quadrato di pomodori? 10 è un risultato buono. Cioè, se fai 10, dai, spacchi. Invece, questo 60, capite già la differenza. Praticabile ovunque, ovvero deserto, terreno, non terreno, Israele anche ci ha puntato tantissimo, si possono fare ovunque. Produzioni fuori stagione. Ovviamente, non le riscaldi. Eccola qua, questa è in Olanda, questa è Utrecht. Famosa Olanda, questa è una serra alta 12 metri, in cui sono la notte vengono illuminate luci artificiali a LED, per fortuna ora, che prima c'erano le vecchie luci che consumavano tantissimo. Mi è capitato di vederla una volta solo in piena produzione, d'estate, finestre aperte, foglie di peperone che uscivano. Foglie di peperone uscivano a 12 metri, per farvi capire le potenzialità di questo metodo di coltivazione. Questi sono i famosi canali da vedere di giorno. E, boh, insomma, queste sono strutture. Ah, pomodori, canestrino è comprato alla Coop, tutti questi. Se a volte a Firenze. Firenze garantisco, fuori Firenze non lo so. Vabbè, lotta integrata, in pratica è nato questo, hanno fatto delle riforme ultimamente per dare, siccome tutti hanno cominciato ad avere più attenzione, su quello che vogliono mangiare, anche i supermercati si sono adeguati leggermente, hanno dato delle spinte. Hanno detto, ok, cerchiamo di dare dei marchi di qualità. In pratica non è che non puoi più usare i prodotti chimici e tutto, c'è stata una bella restrizione. Questi prodotti si possono utilizzare lo stesso, ma te quando le dai devi riempire un registro, ovvero dici io lunedì 1 giugno ho dato il DECIS, un prodotto antiperonosporico sulla vite, sul pomodoro, su quello che voglio, e devo rispettare una settimana, ovvero per 7 giorni non ci devo mandare gli operai. Per 7 giorni non posso venderli. Quindi in pratica c'è dei registri in cui scrivi questo prodotto e dai maggiori garanzie al produttore che non puoi, che non viene venduto quel prodotto, non viene commercializzato, che vengono rispettate determinati parametri di sicurezza. Però quei prodotti vengono utilizzati lo stesso. Ritorna? Qualcuno vuole contraddire? Un discorso un po' più complesso, però più o meno è così a grandi linee. Lo fa un po' veloce, tanto questo c'è un po' da. Agricoltura biologica, ovvero negli ultimi anni si è diffusa, nel 91 è nata l'agricoltura biologica, la certificazione e si è diffuso questo modello agricolo che ora è in Italia, è il primo produttore europeo, Italia è il primo produttore europeo e si sta diffondendo tantissimo, si sta diffondendo abbastanza. Essendo una piccola produzione è facile fare ogni anno più 2, più 3%, perché è una piccola percentuale, quindi è facile incrementare. Allora, agricoltura biologica si dice essenzialmente che questa è quella normale che viene comunemente utilizzata e tutto. Invece di usare prodotti di sintesi chimici o tecniche come diserbanti o concimi chimici, si usa prodotti naturali. Però ci sono due modelli, questa è una cosa molto importante, due modelli di agricoltura biologica. C'è l'agricoltura contadina, che sono quella fatta da piccoli coltivatori diretti, gestione familiare, uno o due operai, tre operai, ma comunque gestione piccola, quella di cui per fortuna ancora l'Italia, la Toscana è ricca, e ci sono le imprese agricole, esempio fra tutti è Alcenero, un'azienda enorme di 250 ettari, tantissime aziende, la Selva di Grosseto, tante altre, insomma aziende enormi che producono agricoltura biologica, però loro hanno un modello biologico ugualmente capitalista, un modello biologico ugualmente discutibile, perché semplicemente non usano l'insetticida della Bayer Idecis, usano l'insetticida della Biogarden naturale, però lo danno lo stesso, le stesse logiche, con le stesse caratteristiche. I concimi non escono da quella logica, il pomodoro assorbe azoto X, fosforo X, potassio X, lo do, invece di dare quello chimico per pasticche, do quello pellettato, però la logica è sempre la stessa. Quindi biologico sì, ma che biologico ci mangiamo? Ovvero sì, già se usi biologico, già se consumi biologico, il tuo impatto ambientale è minore, però se usi un biologico industriale, ovvero tutto quello che compri natura sì e tutto un biologico industriale, non esci un po' dalla logica di sostenibilità ambientale, è sempre la logica capitalistica che ora si è buttata sul biologico. Poi si vede un po' meglio dopo. Allora, degli esempi molto semplici. Differenze di biologico. Allora, questo è una ifa di Fusarium, è un fungo che sta nel terreno e si mangia la radice di pomodoro. Nel chimico do un prodotto chimico che la sterilizza. Nel biologico uso il tricoderma, che è questo fungo, questo qua, che è un altro filamento e gira nel terreno, tranquillamente trova un'ifa di Fusarium, se la avvolge e la succhia e la uccide. In pratica, per uccidere un fungo dannoso, do un fungo utile. Inondo il mio terreno, se so che c'è quel problema di questo fungo utile, che gira nel terreno e cerca questi insetti dannosi, questi funghi dannosi, e li parassitizza. Quindi in maniera sicuramente molto più sostenibile. HQ10, un altro prodotto, funziona molto bene con le forme svernanti dell'oidio, i clestotei, vabbè, insomma, delle forme svernanti, invece di utilizzare un prodotto come lo zolfo, che ha un bel impatto sull'ambiente e tutto, do un fungo utile che va a parassitizzare le forme di svernamento invernale del fungo dannoso. Quindi sicuramente nella ricerca è un modo molto più sostenibile di gestire le malattie. Allora, ultimamente sono partite questa moda, per fortuna anche, diciamocelo, o comunque questa grossa ricerca sui microrganismi. I microrganismi sono la vita del terreno, un terreno è vivo se c'è microrganismi. Più ce ne sono, più il terreno è vivo. Allora, ora c'è gli EM famosi, l'ho detto. Allora, ci sono i microrganismi, gli EM ora vanno di moda, lo usano tutti. Ci si può fare tutto, si è scoperto. Se in metà Mondeggi ci si può levare la polvere, vengono all'Emerson, ci vuole... Cioè, serve per pulire e per disinfettare. Se venivano a Mondeggi avrebbero 10 litri, ce ne voleva. In pratica ci sono microrganismi come micorrize, tricodermi e tanti funghi utili. Invece di ragionare sulla perdita di... che succede? Utilizzo di prodotti chimici, piogge acidi, lavorazioni sbagliate ammazzano la vita dei microrganismi di terreno. Io che fo? Inoculo e rinoculo microrganismi utili, che mi possa addirittura anche rifare da solo. Questa è una nuova scuola e sta andando forte fra le agricolture e fra la gestione biologica, perché funziona e perché è un modo molto sostenibile di coltivare e continuare a dare vita ai nostri terreni. Fa un altro esempio veloce, per avere un po' quando si parla di biologico, no? Che significa poi nella verità che tutti parlano di biologico, ma poi nella pratica cos'è il biologico? Nematodi sono degli insetti che sono del terreno, dei microrganismi del terreno, che fanno questi danni, toccano le radici di pomodoro e fanno venire questi rigonfiamenti. La pianta muore, questo è un esperimento che si era fatto all'università. In pratica, come le puoi combattere? Le puoi combattere sempre con microrganismi utili, con piante innestate, con rotazioni, con solarizzazione. Infatti vedete, un altro problema in quella maniera, si può combattere con cosa? Con funghi utili, utilizzando piante innestate, questa è una cosa che sta andando molto di moda, ovvero molto di moda e funziona anche se costano un po' di più. C'ho un pomodoro che mi attacca, che questi nematodi mi cappano la radice e mi fanno danni, bene, uso la radice di una melanzana che viene coltivata in India, la melanzana fa delle melanzane piccoline, schifose, non sanno di niente, però c'è una radice enorme, che è questa, io gli innesto sopra la pianta di pomodoro, come viene fatto comunemente per i frutti o per le piante di vite. Innesto. Maxifort, devo sapere, però. Comunque le vendono a Maxifort, Beaufort, ce ne sono tanti modelli, tante piante diverse. Poi vengono selezionate e riprodotte. In pratica vengono riprodotte per la qualità della radice, te sopra ci puoi innestare di tutto. Ovvero, invece di disinfettare il terreno, te usi piante con la radice resistente. Roba utilizzabile anche in biologia, in agricoltura contadina. Un altro modo molto utilizzato nel sud è solarizzazione, ovvero si bagna il terreno, si mettono dei teli, questi terreni si riscaldano verso 60-70 gradi e abbassano la carica di microrganismi dannosi. Concetto fondamentale di biologia, una cosa importantissima, prevenire per non curare. Ovvero, chi lavora sui biologici e tutto sa benissimo, chi fa il tecnico e tutto, sa che quando ti chiamano è già tardi. Ti chiamano dicendo c'ho un problema, c'ho questo, è tardi. Infatti è una cosa molto difficile. Si basa tutto sulla prevenzione, ovvero se volete fare un orto, un giardino, biologico e tutto, si fa prevenendo il problema. Un esempio pratico, io coltivo zucchini, c'ho, per fortuna o per sfortuna, ancora non so, un'azienda di famiglia con 3 ettari di ortaggi, si coltivano una serra di zucchini. Serra di zucchini, il primo anno aveva problemi con gli afidi. Questi afidi ci davano molti problemi, si usava il prodotto biologico e ammazzavo gli afidi. Questo prodotto mi costava tanto, più mi girava le palle dare un prodotto che ammazzava sia gli insetti dannosi sia gli insetti utili. Allora ho cominciato a lanciare degli insetti utili, mi costavano un monte di soldi. Poi dopo delle ricerche, dopo un viaggio a Cuba, ho visto che ci sono delle piante facilissime, il tagete, la puzzola, si chiama in tutta Italia, c'è questa pianta, che se te la metti random all'interno della serra con una determinata logica, però potenziando i lati, le entrate e le uscite, in pratica produce delle sostanze volatili che per noi sono quasi impercettibili, che si fermano all'altezza di 70-80 cm e l'afide gli dà noia, gli dà talmente noia che si allontana, ovvero senza usare nessun tipo di prodotto, uso delle piante che metto prima dello zucchino che già mi purificano l'ambiente da insetti dannosi. Prevenire per non curare. Una cosa molto carina è questa qui. Controllo gli insetti dannosi. Che si fa in biologia quando c'è gli insetti dannosi? Non do prodotti generali, do prodotti sostenibili, prodotti da estratti di semi di neem, spinosine, bacilli, piretro. Piretro è uno dei veli più impattanti, però è messo in biologico. Comunque, un'altra scuola, questo è un po' veloce tanto, un po' troppo tecnica, in pratica in Italia c'è un'azienda, la Bioplanet, che è particolare, in pratica alleva insetti, ovvero loro invece di vendere, te puoi scegliere, invece di comprare un prodotto chimico che ammazza un insetto dannoso, l'afide, te gli ordini un insetto, te dici c'ho problemi con l'afide, la loroide, invece di dare il piretro, un altro prodotto chimico, io compro il Macrolophus caliginosus, no, pigmentus, vabbè, mi arriva un barattolino con degli insetti, vado nel mio campo, apro questo barattolino e libero questi insetti sono dei parassitoidi, spesso, ovvero vanno a giro, trovano l'uovo dell'insetto dannoso, ci lasciano un piccolo uovo dentro, da questo uovo dentro nasce una larvettina che si mangia l'uovo dannoso, sfarfalla, si accoppia nuovamente e ogni femmina di questo insetto può parassitizzare fino a 200 uova al giorno di questi insetti. Quindi se io butto 20 insetti, di cui 10 vanno a buon fine, quei 10 nel giro di 2 settimane sono diventati 2 miliardi. Capito? Più o meno la potenzialità. Tecnica funziona molto bene. Appena l'insetto dannoso muore, cala, l'insetto utile che io ho lanciato cala insieme a lui. Invece di usare prodotti chimici, compro insetti. Qual è l'insetto re che tutti vedete, tutti si conosce? La coccinella. Infatti la coccinella è nel biologico. Il biologico viene rappresentata dalla coccinella. Perché se io uso un prodotto chimico, il primo insetto che muore è la coccinella. La coccinella è anche un bioindicatore. Se c'è le coccinelle nei campi, vuol dire che quel campo è un campo gestito in maniera sostenibile. Questo mostro è la larva giovane della coccinella. La coccinella, prima di diventare un insettino bellino simpatico, è un mostro di genere. Allora, un video che ci hanno fatto vedere in Spagna, era bellissimo, La coccinella viene paragonata a un T-Rex. In pratica voi la coccinella la vedete bellina e tutto. Lei dalla mattina alla sera non fa altro che correre in su e in giù su un rammettino piccolissimo. Lei va avanti e dà un morso a destra e un morso a sinistra. In pratica lei si nutre di afidi e per sfamarsi in un giorno ha bisogno di 10 afidi. Però in un giorno ne ammazza 200. Lei in pratica corre e dà un morso va, un morso fa. Tu, tu, tu, tu. A uno gli stacca la testa, a uno gli stacca un pezzo d'addome, a uno gli stacca una gamba, a uno gli stacca un pezzo di schiena. Sembra un film horror. Ora, per fortuna siamo grandi, ma se voi lo vedete un binoculare con un microscopio, ci sono anche dei video su YouTube, fa impressione. Cioè, c'è un insetto che sembra così simpatico che in pratica va a giro da morsi a caso e fa un danno, cioè funziona tantissimo. Ci sono degli insetti, che sono questi qua, che tutti funzionano molto meglio della coccinella. Però la coccinella è quella che tutti conoscono, quella che tutti hanno utilizzato per far parlare di biologico. Comunque, anche la coccinella, tutti bellino bellino, ma per fortuna non siamo afidi. Allora, agricoltura biodinamica, anche questa va molto forte, visto che il biodinamico si trova dappertutto. Dai, un po' veloce. Agricoltura biodinamica, ovviamente il corso sull'agricoltura biodinamica dura 3 mesi. Qui si fa in 3 minuti, quindi capite. In pratica, biodinamica ti dice, se io in biologico posso usare 100, io biodinamico uso 10. Partiamo da questo, è l'estremista del biologico. Ti dice, tanti prodotti possono essere usati in biologico, io non mi torno come vengono utilizzati, no. Tino nasce da Radolf Steiner, insomma, tutte le scuole sono... Da un approccio per la prima volta, no, è un mondo ora... È un mondo che non mi appartiene molto. Però è interessante perché c'ha tante cose... Come? No, allora è stato pluridimostrato che funziona, che tantissime cose hanno una ragione, hanno una base anche... Ricordo all'angolo destro del campo, no. No, non entriamo in questo. Allora, ci sono pochissime ricerche scientifiche che dimostrano perché va contro la scienza questo modo di coltivare. Quindi l'università è scettica, infatti mai difficilmente si parla di agricoltura biodinamica nelle università, perché è un principio contro tutta la scienza. Dicono semplicemente che le energie dei pianeti, l'energia della Luna, hanno un effetto sulle attività microbiche e sull'attività delle piante. Quindi ci sono tantissime tecniche che funzionano. Allora, la mia esperienza da agronomo, che più o meno conosco aziende o no, funziona o non funziona? Sì, funziona. Ci devi un po' rede, perché, per esempio, fa l'esempio pratico, no? Corno letame... Si mette l'etame di una vacca che ancora non ha partorito sotto, non mi ricordo che luna, dopo una determinata luna va tenuta 3 mesi in una zona, in un'ombra, con una determinata esposizione sottoterra a 1 metro di profondità dove deve maturare, perché prendendo determinati cicli della luna si energizza. Quando lo tiri fuori lo devi dinamizzare, non so se ce l'ho. Questo qui è il famoso dinamizzatore, deve essere il rame che crea dei vortici verso destra e verso sinistra per aprire le particelle dell'acqua, far entrare l'informazione della luna all'interno, poi lo devi distribuire con un contenuto di 1 litro, lo devi distribuire, qualcuno è pratico di biodinamica? No, se no mi fa una figura... Devi fare una diluizione. Ora no, sembro super contrario, però... Devi fare una diluizione quando lo... Ok, e quando lo dai le devi segnare dei cerchi, lo dai con una botte di rame, devi disegnare dei cerchi, perché te dai delle goccioline che vanno a catturare l'energia dei pianeti e potenza quella zona, in modo che i microorganismi di quell'area si sviluppano. Io questa cosa di distribuire l'ho fatta dai mi babbo, che ha 65 anni, ho detto babbo fa cerchi, ma mandava a fanculo per un anno. L'ha fatta, detto, vai a cagare te, dice, una volta l'ho fatto, mai più nella mia vita. Poro mare, chiedeteglio, è interessante. Dice, babbo, vai, fa cerchi. Contadino di 65 anni, cioè già mi vedeva girare, cioè, sei scemo. Comunque, allora, la conclusione è, perché? Perché questo è un mondo che te devi conoscere, devi approfondire, e ci sono delle basi che funzionano. Gestione di terreno in questa maniera, è vero o no? Sì, funziona. Queste sono prove scientifiche. In pratica l'acqua dinamizzata ha una forma stabile, questa è una molecola al microscopio, grandimenti paurosi, che si apre. In pratica quando io dinamizzo, che fo? Apro una molecola dell'acqua, ci può entrare dentro il messaggio, questa è una cosa in medicina cinese, ci martellano, poi quando l'ho fatto entrare dinamizzo, in modo da spostare quell'informazione all'interna. La goccia dell'acqua, cioè la milionesima parte dell'acqua, tiene questa informazione, la libero nel terreno con delle energie della Luna, dei pianeti, chi non lo capiva bene queste energie, però queste energie vengono poi riprodotte nei terreni. Funziona o no? Sì. Io, come funziona? Sì o no? Sì. No, questa è una paraculata. No. Allora, io sono uno molto scettico. Aspetta. Allora, io sono molto scettico su queste cose. Però, aspetta, questa cosa è vero. Che le mole dell'acqua dinamizzate si aprono e poi si richiudono, è vero. No, questa è vera. Questa è verissima. Poi, quanto te riesci a dargli messaggi, quanto questi messaggi vengono riprodotti, non lo dimostra nessuno. Però ti assicuro, comunque, quando te vai nelle aziende biodinamiche, sono aziende bellissime. Qui c'è l'azienda di Corrazzano. Comunque c'è un'attenzione all'ambiente, all'ecosistema, a chi ci lavora e tutto. Allora, il biodinamio è una delle agricolture più discusse, anche perché io non sono capace di spiegarlo, perché uno sa spiegarvelo, non ve lo spiego, me lo spiego assolutamente, mi manderebbe in culo immediatamente. Però c'è delle basi che hanno dato dei risultati. La mia esperienza, girando le aziende, è che comunque chi fa biodinamia ha un'attenzione paurosa all'ambiente. So sicuramente gente che non utilizzerebbe mai un prodotto chimico, so sicuramente gente che fa tutte le cose in maniera perfetta. Poi la parte più filosofica, bisogna esserci un po' portati, bisogna crederci, e spesso questi prodotti costano anche un po' di più dei prodotti biologici, dei prodotti contadini. Va avanti? Sì. Sei d'accordo? L'ho fatta male. Allora, è sempre la parte più difficile a fare di questa lezione. Una volta ho beccato uno alla biodinamica, ha fatto un culo, mi ha massacrato. Cioè. No, perché non posso spiegare la biodinamica in 3 minuti, in corso di 3 mesi o di 3 giorni. Allora, agricoltura sinergia, qui per fortuna un po' più facile. Allora, l'agricoltura sinergia ti dice semplicemente: il suolo è un organismo autonomo in grado di rigenerarsi. Fukuoka, tutti i resti. L'agricoltura, c'è questo libro, ha rovinato generazioni di studenti d'agraria, che è l'agricoltura di non fare. Ovvero, ti leggi il libro di Fukuoka e dici: ok, nell'orto butto semi, aspetto la pioggia, guardo la luna e vuoi raccogliere. Io l'ho letto il libro, più o meno ti dicevo, sì, funziona o no? Sì, in Giappone, in determinati posti, in determinate aree, in quegli anni, con quelle tecniche e tutto, funzionava benissimo. C'è stato anche delle persone di Firenze che sono andate a vedere dove le produce Fukuoka e tutto, hanno confermato che era vero. Il problema è che non puoi paragonare un sistema di produzione, una tecnica sviluppata in una determinata area, riportarla in tutta Italia o in tutto il mondo, perché il libro è venduto in tutto il mondo, e aspettarti che funzioni in quella maniera in tutto il mondo. Quindi l'agricoltura è non fare. Dillo a un contadino di 60 anni o di 70 se l'agricoltura è non fare. Loro ti dicono semplicemente: sviluppiamo delle caratteristiche molto importanti, facciamo lavorare essenzialmente i microrganismi di terreno, creiamo le condizioni per cui i microrganismi possono lavorare, io intervengo il meno possibile nel terreno e il terreno si autorigeneri. Questa cosa è verissima. Un modo molto più sostenibile di gestire il terreno: si leva la natura, si leva le lavorazioni profonde, si leva tante cose e si lavora sui microrganismi e sulla consociazione delle piante. Agricoltura sinergia, allora sfatiamo subito un mito. Qualcuno di voi ci lavora? Ci ha visto un orto sinergico? Gli orti sinergici sono bellissimi. Un mito da sfatare, a mio avviso, poi quando troverò quello che mi contraddice sarò contentissimo: non ci si campa. Ovvero, io non conosco nessuno che campa vendendo ortaggi o frutta o verdura tramite l'agricoltura sinergia. È un'agricoltura perfetta, pensata per recuperare zone svantaggiate, giardini, collinette, zone inquinate, zone marginali, si fa il terrazzamento, si fa l'aiolo, zone bellissime, puoi fare dei recuperi paesaggistici incredibili, però non ti dà c'ha dei costi di produzione e di gestione che sono più alti del biologico e dell'agricoltura contadina. Quindi se io conto le ore, chi ci lavora, quel pomodoro lo devo vendere purtroppo a 5 euro. Ritorna? Qualcuno vuole contraddire? Allora, è per autoproduzione, benissimo. Però se te leggi e vai a farti corso all'agricoltura sinergia, non ti dicono questo. ti dicono l'agricoltura può cambiare il mondo, l'agricoltura dovrebbero fare tutti per poter esportare, per poter vendere, è più sostenibile del biologico sicuramente, perché sviluppa sulla consociazione, abbinando diverse piante, diverse caratteristiche, lavorando sui microrganismi, le piante si ammalano molto meno, vero o no? Verissimo. No, io li chiamo la rovina perché quando si trovi con studenti d'agraria, si sono appena laureati e hanno letto il libro di Fukuoka, tutti vogliono fare agricoltura sinergia, tutti. No, ma allora, io, cioè, si fa anche no a Mondeggio agricoltura sinergia, cioè... Approfitto della tecnologia. Esistono dei sistemi chiamati agroforestali che sono studiati e sono basati su... più o meno l'agricoltura sinergica. In Brasile, per esempio, sono molto in uso e funzionano, hanno dato anche risultati commercialmente. C'è gente che sta passando... Ci sono sistemi tradizionali agroforestali, diciamo, di consociazioni di piante, dove tra l'altro sono sopravvissuti, per esempio, il cacao nella costa della Bahia era stata... invasa da un parassita, si chiama scopa di strega, vassoia di bruscia, che aveva sterminato tutte le piantagioni di cacao, dove è sopravvissuto, dove c'era sistemi integrati, tipo, non è esattamente l'idea di Fukuoka, sono sistemi, diciamo, tradizionali che si fanno di consociazioni, di economicamente sono a volte anche vantaggiosi, diciamo, non posso dire se ci si campa sempre, però è anche possibile. Boh. Forse lì comunque il clima tropicale c'entra pure... Ora mi collego a Vincenzo. Finiamo questo, ok, questa è una bellissima gestione di agricoltura e sinergia. Collina, a picco, erosione, problemi, terrazzamento. Questo è uno di Bagnardipoli. Terrazzamento... e tutte le collinette fatte per bene, vedete qui, guarda che pendenza c'era, livellamento, cioè un terrazzamento, bellino, hanno cominciato, Maurizio è questo qui, a coltivarci, funziona o non funziona? Gli funziona molto bene, quello di cui stavi parlando te è questa, la permacultura, ovvero la versione più grande che ottiene la sinergia è la permacultura, ovvero ti dicono si parte da un principio molto semplice. Questo è un altro modello di coltivazione, intanto si trova agricoltura, gestione, esperimento e permacultura. L'esperimento è semplice, cioè il concetto di base è molto semplice, la biodiversità, bosco, sistema molto complesso, piante di faggio, quercia, leccio, alberi, arbusti, piante erbacee, biodiversità enorme, quelle piante, quegli alberi ci sono, anche se sono tutte e due dei noci, ogni noce è diverso dal noce accanto, ci sta che un noce si ammali perché è più debole, non c'ha, arriva un insetto, lo trova debole, il noce ha 10 metri non si ammala perché è più resistente e tutto, perché hanno la biodiversità, hanno un DNA diverso, quindi uno è soggetto a un attacco di un virus, uno no. Campo di mais, campo mais BT148, mais OGM, 150 ettari, una pianta accanto all'altra di 30 centimetri, tutte le piante sane, se se ne ammale una, si ammalano tutte, questi sono tutti i cloni, sono tutte piante una identica all'altra. Quindi se si ammala una, si ammalano tutte. Si ammaleranno o no? Sì, si ammalano sempre. Perciò c'è bisogno di grossi prodotti chimici. Permacultura ti dice questo. Incrementiamo più possibile la biodiversità. Quindi creiamo degli ambienti bellissimi in cui c'è tutte delle regole, tutti dei cerchi, tutti, con l'aggiunta anche degli animali, sono delle aziende o delle sistemazioni o dei recuperi di ex foresta abbandonate, la foresta amazzone e tutto, bellissimi. Si mettono piante aromatiche, erbacee, orticole, floricole, frutti, bosco, tutto mescolato in un ambiente e viene riprogettato. Non è il caos, è un ambiente studiato a tavolino, in maniera perfetta, da ricreare un ambiente perfetto, in equilibrio fra di loro e che non si ammala. Che non si ammala o comunque che limita il più possibile le malattie e incrementa la biodiversità. Avanti? Fatta molto veloce anche quella. Allora, le cose, si va verso la conclusione, c'è due slide, le cose divertenti, da sapere comunque. Coop, Conad, Lidl, tutti i grandi supermercati hanno severi controlli sui residui, ovvero quando io do un prodotto chimico, su quel prodotto dietro c'è scritto tempo di carenza 3 giorni, vuol dire quel prodotto, quella molecola, mettiamo il decis, per essere degradata necessita di 3 giorni. Loro sono quasi gli unici in Italia che ti possono garantire questo prodotto. Ovvero i supermercati fanno a controllo, a campione, delle analisi chimiche. Quando arrivano delle partite di ortaggi, di frutta, di tutto, loro prendono tanti ortaggi, tanta frutta e fanno questa analisi e guardano se ci sono i residui. Se ci sono residui, bloccano la produzione, rimandano indietro e mandano quasi in rovina il produttore perché gli bloccano l'acquisto per 3 mesi. Un produttore lavora con loro, sta molto attento a rispettare i giorni di carenza. Grazie. Boni, agricoltura biologica. L'Italia è uno dei paesi con limiti di legge più restrittivi al mondo. In Italia il biologico dell'Italia è diverso dal biologico della Cina. Questo dato agghiacciante: gli ultimi 10 anni 500.000 aziende hanno chiuso. L'agricoltura biologica e biodinamica sono in continuo aumento. Questa è una guerra, ci stanno ammazzando a tutti. Ovvero 500.000 aziende chiuse in 10 anni, e queste non sono le grosse aziende, questi sono i piccoli contadini, piccoli coltivatori diretti uccisi dalle politiche europee sbagliate, dalla gente va a comprare il pomodoro sempre al prezzo più basso e dai grandi che ti mangiano, da politiche, leggi sbagliatissime. I gas, gruppi acquisti solidali, mancano produttori che vendono i gas si svilupperebbero e incrementerebbero se ci fossero produttori, non ci sono abbastanza produttori. Quando paghi un pomodoro meno di 1 euro, sei cosciente, sta inquinando e sfruttando. Non è possibile oggi in Italia e nel mondo probabilmente produrre e vendere un pomodoro sotto a questo prezzo. In biologico a quanto si vende un chilo di pomodori? 2 euro e mezzo. 2 euro e mezzo, 3 euro, 3 euro e mezzo, anche 4 euro, in base al pomodoro. Se costa meno di 2 euro, 2 euro e mezzo, meno di 1 euro, sicuramente un pomodoro coltivato in maniera chimica, con quel modello di produzione o con lo sfruttamento, perché da qualche parte devi tagliare, o tagli sul chimico, o tagli sul lavoratore, o tagli sull'ambiente. Allora, controllo delle aziende biologiche, questa è velocissima, in pratica, chi controlla il controllore? Io azienda biologica pago per farmi certificare biologico. Io pago 1000 euro l'anno per un'azienda che viene da me e mi controlla. Questo prima viene da me, mi chiama, mi dice: oh, vengo lunedì, ci sei? E mi guarda che cosa? Il registro. Mi guarda se io ho comprato un prodotto non biologico, l'ho registrato in questo registro con la fattura e l'ho dato. Quindi te devi essere proprio scemo per farti beccare. Almeno sugli ortaggi il controllo è imbarazzante e non è giusto e non è seria un controllo che io devo pagare chi mi controlla. Se lui mi fa un controllo troppo accurato lo mando in culo e ne prendo un altro e mi fa il controllo molto più leggero. Quindi il consiglio che vi do è andare a vedere queste aziende, installare un rapporto di fiducia, d'amicizia con i contadini, perché solo in quella maniera ci avrai la garanzia che questi prodotti che produce in maniera sostenibile. Questa è una cosa molto importante. Dimetuato, prodotto chimico, decis, 3 giorni, il famoso prodotto che dicevo prima, sulla mosca, esperimento all'università, mosca della carota, do questo prodotto, la mosca arriva sulla carota, muore, molecola di dimetuato c'è, dopo 2 giorni c'è, terzo giorno, la mosca arriva sulla carota, fa l'analisi e muore, quarto giorno, fa l'analisi, dimetuato non c'è più, la molecola di dimetuato non la trovo più, il prodotto può essere venduto, arriva la mosca, si posa sulla carota e che fa? Muore. Perché muore? Non c'è ancora, perché se fa l'analisi chimica il prodotto non c'è, in pratica le molecole mutano. Quella molecola di dimetuato è stata degradata in una molecola secondaria che è ancora più tossica, o comunque è tossica uguale. È così tossica che la mosca continua a morire, continua a morire per 12 giorni dopo che io non ho più trovato la molecola di dimetuato. Che vuol dire il tempo di carenza? Vuol dire sì, quella molecola non c'è più, però continuo ad avere prodotti chimici che continuano a avvelenare. Allora, questo, chiudo con questa, controllo di biologico, in pratica, queste sono le grandi truffe di biologico, le più grosse che sono state fatte in Italia, perché ve l'ho messo qua? Chi l'ha beccati? Prodotti biocontraffatti, 1500 tonnellate, camion e camion, truffa bio da 220 milioni di euro, queste le fanno contadini o le fanno le grosse aziende? 220 milioni, fanno le grosse aziende. Perché ve l'ho messa? Perché queste qui chi l'ha beccati? L'ha beccati la finanza. Cioè, gli organismi certificatori, davanti a un danno, un truffo di genere, con queste quantità, loro non si sono accorti di niente. Questa è una cosa agghiacciante. Allora, presentazione è finita qui. A che è servita? Serviva un po' a darvi delle info, degli stimoli e delle attenzioni su qualcosa in più, su quello da sapere quando si va a fare gli acquisti, perché quando voi spendete un euro per comprare un pomodoro a un euro al mercato a 50 centesimi, a 60, o lo pagate 2,50 dal contadino sotto casa, state decidendo se il mondo va aiutato o no. È inutile andare a Fridays for Future, è inutile fare i fighi sull'ambiente e poi si compra il pomodoro del cavolo e si gira un cellulare da 400 euro in tasca. Quindi pensiamo dove spendiamo i nostri soldi, pensiamo anche all'ambiente, perché noi siamo la prima causa dei danni ambientali. Ovviamente i soldi, quanto si guadagna, è direttamente proporzionale. Si dice bella figa, se guadagno 5.000 euro sono tutti buoni a mangiare biologico, sicuramente. Però un po' d'attenzione può essere fatta, perché io non credo che quel pomodoro che voi pagate 2 euro invece di 1,20 o 2,50 vi cambierà la vita, vi cambierà a fine mese. Comunque mangiare sano, non siamo quelli che mangiamo. Mangiare sano è un po' la base per vivere bene, per stare in salute e per creare anche un mondo migliore. Grazie. Va bene.